l'idea. Innanzitutto io ringrazio per l'invito e anche per il modo in cui è stata così organizzata la serata, con voci differenti per ragionare sugli elementi di spunto che possono uscire fuori da un'esperienza ormai lunga come quella del movimento No TAV. Cerco di concentrare un po' quelli che secondo noi sono i punti forti che ci premono così evidenziare di questo movimento, per come l'abbiamo vissuto, per come continuiamo a starci dentro e per quelli che sono secondo noi un po', diciamo, gli elementi che possono servire a una discussione più generale che cede anche la particolarità del territorio, del contesto valsusino. In parte Paolo ha già detto qualcosa su come è concepito sto libro, nel senso che a noi non ci interessava fare un libro su le buone ragioni ambientali tecniche del perché il TAV non deve essere fatto, nel senso che intanto questa è una cosa che ci sono già molte pubblicazioni in questo senso, che sicuramente sono migliori di qualunque cosa avremmo potuto fare noi in questo campo, a partire proprio anche nel libro una parte dedicata anche nel ragionamento a questo, dal lungo processo di autoapprendimento che il movimento e il territorio ha costruito in questi 15-20 anni proprio su tutti gli aspetti appunto ambientali, delle conseguenze ipotetiche dell'opera una volta realizzata. Tanti li trovate anche sui vari siti notava, anche quest'ultima cosa che ha fatto una delle persone che qua ha intervistato, Mario Cavarni, alle 150 ragioni, ne dà bizzeffe, insomma, di spiegazioni in questo senso. E neanche ci interessava l'altro grande aspetto, che più passa il tempo più diventa anche, se vogliamo, di una certa attualità e di un certo peso anche nel far uscire le ragioni del territorio, ma le ragioni del movimento fuori dal suo contesto, che sono tutta l'architrave finanziaria, come dire, tutto il dispositivo del project financing che nella sua declinazione italiana permette di fatto un uso molto disinvolto del denaro pubblico per far girare livelli di denaro e scambio, diciamo, tra rappresentanza politica, potere politico, certe forme dell'imprenditoria che in tanti casi, come la Coop, tutte le sue articolazioni, CMC eccetera eccetera, sono poi insomma appunto delle dinamiche di scambio tra potere politico, una certa imprenditoria e, come si dice, anche di un certo imprenditoria criminale mafiosa, insomma, come si dice, che però è interessante notare che poi sono i livelli più bassi, perché in realtà di tutto questo volume di denaro è molto più quello che corre dentro i partiti eccetera. Su questo c'è il libro molto chiaro di Ivan Cicconi, il libro nero sull'alta velocità, che questo signore è diventato un po' negli anni il massimo specialista di come funzionano gli appalti in Italia e di come diventa il nuovo modo sostanzialmente, senza di un'opacità estrema, di finanziamento pubblico partiti, no? A noi invece interessava partire da tutt'altri punti di vista, cioè quello che ci premeva era provare a ragionare, raccontare, dire anche la nostra ovviamente, su come questo movimento si è sviluppato, su quali sono state le dinamiche che l'hanno attraversato e potenziato, quali sono stati i suoi punti di forza, come certe cose sono maturate al livello che ha portato questo movimento ad essere... ad essere, per quello che è a nostra conoscenza, io direi il punto più alto di resistenza degli ultimi anni, forse degli ultimi decenni in questo paese. Quindi ci interessava anche rimarcare un po' i processi, le processualità che hanno attraversato il territorio, ma soprattutto la gente che lo abita e che ha fatto parte, che continua a far parte di questo movimento. Devo dire che avevamo anche abbastanza un obiettivo critico, nel senso che non c'erano mai piaciute, dei pochi libri che sono stati fatti in questo senso, le rappresentazioni che di questo movimento venivano date, non perché le ritenevamo errate, ma perché secondo noi non coglievano qualcosa di più essenziale di quello che lì è avvenuto e che continua avvenire. Mi riferisco in particolare a certe pubblicazioni, soprattutto del giro di carta, dove secondo noi si cristallizzava troppo una certa composizione del movimento, si tendeva troppo a leggere il movimento No TAV come, diciamo, espressione di un nuovo municipalismo, e tutta una retorica e anche delle pratiche che poi sono state importanti e sono tuttora, no? Quelle del chilometro zero, di queste cose qua, non perché non ne facessero parte o perché non fossero un tratto di realtà di quel movimento, ma perché secondo noi lo cristallizzavano e non facevano vedere invece tutta la trasformazione che c'è stata lì e come i soggetti coinvolti, da persone assolutamente normali, con, come dire, aspettative di vita, abitudini di lavoro, nella maggioranza dei casi alcuna esperienza politica, militante o sindacale precedente, come proprio nel vivere il movimento e soprattutto nel vivere la lotta che questo movimento ha portato avanti, si sono trasformate e come secondo noi di fatto oggi è un'area, è un territorio, quello della Valsusa, dove c'è, uso un linguaggio forse un po' ostico, una composizione politica alta, soprattutto se confrontata con il resto del paese. E anche ci interessava far emergere come forse oggi, se il movimento No TAV rappresenta tanto ed è diventato un punto di riferimento così importante, è perché forse ha nelle istanze che esprime, a volte consapevolmente, a volte meno, forse mette sul piatto tutta una serie di nodi politici che sono secondo noi piuttosto attuali, che hanno anche a che fare con molte diciamo delle più significative esperienze di lotta che ci sono a livello europeo e internazionale. Ci interessava anche così far emergere e non cristallizzare la visuale che è sempre stata, da un certo punto di vista, quella della controparte, cioè di raffigurare e rappresentare questo movimento come un territorio composto di, diciamo, egoismo localistico, no? E di una certa allergia al cosiddetto progresso, eccetera eccetera, e di leggere anche queste posizioni in quelle che secondo noi sono le ambivalenze che attraversano sia da una parte che dall'altra. Mi spiego meglio. La Val di Susa viene percepita come un territorio montano, no, che resiste a un'opera devastante per il suo territorio. Come ho detto prima, noi non ci siamo entrati troppo perché sono già tante le spiegazioni su questo terreno qua. Penso che ai più di voi, e non è neanche necessario che lo ricordi, c'è la Val Susa, qualcosa che sta a metà tra la città di Torino e la vera e propria montagna. Soprattutto dove il movimento si è sviluppato, si è radicato e dove ha la sua, diciamo, base di consenso e di forza maggiore, è la bassa Mediavalle, che è un territorio pesantemente infrastrutturato, pesantemente industrializzato e oggi che vive anche, diciamo, le conseguenze di una deindustrializzazione con tutto quello che comporta come disoccupazione eccetera eccetera. Ci sono due statali, un'autostrada che ha devastato profondamente il territorio e la cui realizzazione ha funto come esperienza negativa precedente nell'opporsi poi al nuovo progetto. C'è già un TGV, che quindi c'è, tra l'altro, di fatto un TAV esiste già, eccetera eccetera. Quindi anche mostrare che anche quel territorio è una cosa un po' a metà, no? Non è esattamente la valle alpina illibata e totalmente vergine, cioè tutta una serie di impatti di un certo tipo di modello di sviluppo li ha già vissuti. E quello che emerge secondo noi anche da alcune delle interviste che facciamo, ma di cui noi eravamo abbastanza convinti, era che in realtà, se quel territorio ha avuto una storia particolare che non è stata indifferente, cioè comunque un territorio che ha una memoria politica di un certo livello tra esperienza partigiana, tra le lotte del movimento operaio fin dalla fine dell'Ottocento fino a tutti gli anni, diciamo, 60-70, in realtà quello che poi ha prodotto la forza del movimento è stata il movimento stesso, cioè la lotta. E in particolare quello che, su cui noi abbiamo sempre scommesso, noi e non solo, ma su cui questo movimento è stato in grado di scommettere anche nelle sue articolazioni, nelle sue differenze e nei livelli differenti, come possono essere anche quelli della componente degli amministratori, è stata quella di riconoscersi, comunque costruire la propria forza, la propria riconoscibilità su un livello di rigidità, sul dire oltre non si può andare e sul dire che su quell'opera, su questa battaglia non c'era mediazione possibile, non si poteva comporre niente, cioè o si stava da una parte o si stava dall'altra. Tutta la storia del movimento Notavi, tutta la ragione della sua forza stanno intorno a questa vicenda qua e a questa qualità fondamentale. Non a caso si chiama Notav, che vuol dire è il fine del movimento, intorno a quel fine si è strutturato il movimento stesso come, secondo noi, come soggetto, con tutte le sue differenze che lo compongono. E il movimento ha sempre fatto salti in avanti, conquista di consenso, allargamento, radicalizzazione, generalizzazione, diciamo, facendosi trovare al suo posto nel momento in cui la minaccia concreta dell'opera si rendeva concreta nel territorio, e questo è arrivato fino ad oggi. Questo gli ha permesso, dopo, come si dice, 20 anni poi di mobilitazione aperta nel territorio, diciamo che dal 98-99 sostanzialmente, comunque di arrivare al punto dove sostanzialmente c'è un cantiere da cui dovrebbe partire la realizzazione di un tunnel esplorativo, eccetera, eccetera, che è ancora un lavoro preliminare, ma sostanzialmente si è arrivati fino a qua perché il movimento è sempre sceso in campo, si è sempre messo di mezzo. In mezzo a tutta questa storia qua c'è, secondo noi, la capacità e la sintesi che il movimento ha saputo fare di tutte le sue composizioni, però a partire da questo dato fondamentale, cioè che sull'opera non si poteva mediare, che bisognava farsi trovare pronti nei momenti che contavano e che tutte le sue articolazioni lavoravano su questo progetto condiviso. Questo non per tratteggiare una storia idilliaca, perché ci sono stati momenti e momenti, discussioni e discussioni, però alla fine, diciamo, il senso di questa storia è questa qua. E se noi andiamo a vedere anche dentro la componente così apparentemente più moderata, come può essere quella dei piani istituzionali, del movimento, eccetera, delle amministrazioni, volevo dire, della rappresentanza istituzionale, chi si è messo fuori da quest'ottica è sparito. Se noi, è una storia indicativa andare a vedere tutta la vicenda che è successo a un personaggio come Ferrentino, il peso che questo personaggio aveva all'interno del movimento nel 2005, quando il movimento aveva praticato anche dei livelli di rottura, diciamo, delle forme tradizionalmente ammessa della politica, e no, barricate, livelli di conflitto anche alto, ma Ferrentino era uno che, per come si era comportato fino a quel momento, era l'allora presidente della comunità montana, era riconosciuto e aveva un ruolo anche di tra virgolette. Ciao, buonanotte. Stava annoiando. E per dire, questo personaggio che aveva un'autorità e un riconoscimento enorme, nel giro di 3 mesi, nel momento in cui ha preso la posizione sbagliata, che è stata quella di trovare una terza via impossibile tra il Sitav e il Notav, ha inventato questa cosa del progetto che non ci ha mai creduto neanche la controparte, cioè il cosiddetto fare ferrovia alpina responsabile, un terzo tracciato. Lui, nel giro di 2 mesi, ma era veramente una persona di un'autorevolezza incredibile in valle, è diventato un Cometav, che forse la peggiore definizione che può avere, perché dentro un territorio, come dire, dentro una contesa così accesa, sei meno rispettato ancora di chi sta dall'altra parte. E anche la storia del rapporto tra movimento e istituzione è interessante, perché è un rapporto che è stato altalenante su questa cosa. Io credo, dal nostro punto di vista, il movimento ha saputo costruire lui il punto di forza ed essere quello che ha costruito il percorso reale a cui poi intelligentemente le amministrazioni del territorio si sono adeguate. Lì c'è anche tutta una storia che tante parti, cioè dire, che le stesse amministrazioni sono poi diventate rappresentate da gente che arrivava dai comitati e non solo da liste precedenti, per cui oggi in molti comuni della Valfusa la gente che magari sta in molti consigli comunali è gente che dietro c'ha l'esperienza dei comitati. Direi ancora una cosa su questo, per precisare meglio quello che dicevo prima, che non ci convincevano certe rappresentazioni che venivano fatte, perché si tendeva a leggere questo movimento appunto come un movimento di gente normale, sensata, cosa che secondo me è assolutamente vera da un certo punto di vista, e che si riconosceva in una certa forma della democrazia partecipata, eccetera, eccetera. Secondo noi il movimento notava è andato ben oltre queste forme qua, e nei momenti della lotta stessa ha prodotto dei livelli e delle esperienze decisamente più significative, con delle punte di esperienze di precipitato, diciamo, di intensità e di vissuto, che per chi le ha vissute, qua un po' di gente se la ricorda, insomma, sicuramente sono state importanti, sono state di una forza tale perché prefigurano in qualche modo già anche per certi versi magari una società altra come ce la potremmo immaginare o sognare. Mi riferisco in particolare all'esperienza della Libera Repubblica della Maddalena, che è stato un punto più alto, ma sono forme che con certa intensità si riproducono a livelli differenti, a volte nei campeggi, a volte nei blocchi dell'autostrada, eccetera, eccetera. Però a noi interessava, siccome non ci basta, tanto non ci piace una rappresentazione quanto non crediamo che si possa rappresentare il Notav solo così, perché quella è una punta molto avanzata ma che rappresenta poi anche delle composizioni particolari, ci interessa leggere questo movimento nella sua, come dire, nella trasversalità di tutti i suoi livelli, no? E quello che per noi è interessante è vedere come è stato un vettore, io lo chiamo così, di politicizzazione del territorio e della vita nel territorio, per cui, per fare un esempio, i cattolici che vanno a messa con la bandiera Notav e in quel senso producono, come diciamo, un atto tra virgolette di rottura, no? Per protestare contro il vescovo di Susa che non prende posizione, che fa il don abbondio della situazione, piuttosto che certe dinamiche che possono sorgere nella scuola con gli studenti che vengono affidati ai servizi sociali perché danno dei volantini che attivano gli altri loro compagni di classe, sono secondo noi tutti dei sintomi, no? e delle dimostrazioni di come questo movimento ha lavorato in profondità in questo territorio. Questo secondo noi è sempre da leggere proprio nella sua trasversalità in tutti i suoi livelli, perché poi ci sono intensità differenti, gradi differenti, perché sennò sembra a volte che quando si parla del movimento Notav va in giro e parli di una comune, non è così. Ci sono dei momenti che prefigurano quelli, ci sono dei momenti assolutamente più normali, ma quello che è certo è che una tensione politica, una tensione alla partecipazione, all'autoattivazione ha segnato quel territorio in termini assolutamente positivi. Dico ancora due cose, diciamo, sul punto in cui siamo arrivati, su quello che secondo noi lascia un po' così di interessante. Mi sembra che a lungo è stato rappresentato in questi termini, no? Come appunto quattro montanari testardi, oppure come nuove forme del municipalismo. Secondo noi invece ha espresso anche esperienze esperienze nuove e forme nuove della politica. Non è forse un caso che il movimento Notav inizia a emergere e avere i suoi primi momenti forti nel momento in cui quello che era il cosiddetto movimento No Global iniziava a fare la sua traiettoria discendente. Non è forse un caso che il movimento Notav è emerso in un momento in cui poi un certo tipo di lotta a difesa dei territori ha iniziato a espandersi nel nostro paese, poi con alterne fortune, capacità e tenute, durata. E non è forse il caso che questioni come quella della crisi della rappresentanza politica, del venir meno della capacità di essere punti di riferimento dei partiti tradizionali, dei sindacati e di forme politiche consumate, lì abbia trovato, come dire, anche un contesto in cui queste cose si sono espresse un po' prima e continuano a esprimersi. Un punto interessante in questo è che mi sembra che il movimento Notav abbia messo abbastanza all'attenzione quanto importante avere un luogo, costituire un luogo dove si vive, dove si intrecciano le relazioni, dove si lotta. Questo mi sembra che sia un tratto, come dire, assolutamente centrale e urgente dei movimenti oggi, non solo dei movimenti, forse della stessa possibilità di vita, perché se noi guardiamo cosa sono le nostre città, con quale urgenza si pone questa questione. Mi fermerei qua, perché sennò poi vado troppo avanti, mi riservo di parlarci dopo.